Amici di Runtime, buonasera, e sul solenne sciacquone di fine sigla che io vi do il ben trovati in questa ennesima diretta di OGM, ottimisti una volta, ormai oltranzisti, e vediamo perché, lo vediamo tra un po', gastricamente maleducati come da sigla, sono con me a farmi compagnia quest'oggi l'altro padrone di casa, la seconda delle tre parti canoniche di OGM, Marco Gualdi. Ciao ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Senti che vitalità e che entusiasmo. E poi il nostro consulente speciale per affari vari ed eventuali, Carmine Puccio Console. Sì, come l'assessore Palmiro Canginio, la delega vari ed eventuali. Esattamente, esattamente. Ben trovati ragazzi, come state? Cominciamo da noi, come state? Come state? Presentamente seduto, però... Vabbè, questo seduto mi sembra un buon inizio. Seduto e stanco, se volete saperlo, giornata lavorativa semi-infernale. E voi invece? Ma guarda, anch'io seduto, anche se ti devo dire la verità che, come dire, le buone pratiche, le best practice della radiofonia, ce la posso fare, vorrebbero che si stesse in piedi, perché così il diaframma è più rilassato, si parla meglio, ci si sforza di meno e soprattutto, appunto, non si parla con la gola, ma si parlerebbe meglio con il diaframma. Marco, tu invece? Ma noi siamo esperti di radiofonia, per cui va tutto bene, insomma, va bene anche seduti o sdraiati a letto a testa in giù. Oddio, il sangue al cervello, non lo so, non lo so. Fatemi salutare chi ci ha già raggiunto in chat, perché si stavano godendo l'improbabile playlist musicale che nella scorsa ora avevo procacciato e preparato per loro, Alex Arcuglia e Davide Gatti. E poi ricordo invece a tanti amici, anzi adesso lo metterei anche in chat, che già da qualche giorno è attivo il nostro nuovo gruppo, o meglio il nostro nuovo canale su Telegram, attraverso il quale vi informiamo senza spammarvi troppo su tutta la programmazione di Runtime, quindi sulle dirette che stanno per arrivare, sul palinsesto e su tutte le nostre iniziative. Si tratta di un gruppo broadcast, quindi non potete interagire, nel senso che non potete rispondere, non potete scrivere, potete soltanto ricevere le nostre informazioni, però in cambio vi promettiamo che non vi romperemo le scatole ogni 2x3. Quindi grazie a tutti quelli che vorranno far parte di questo canale. Siamo già quasi una cinquantina sul canale Telegram, mi sembra un bel risultato, come del resto ormai vogliamo verso i 3100, ma facciamo anche i 4000 ascoltatori, following, seguaci, che brutta parola, seguaci di Runtime Radio su Spreaker, perché siamo arrivati felicemente a 3025. Non male, direi, non male, non male. Devo dire che questa nostra... Secondo me sono 3024 di troppo rispetto a quelle che ci meritiamo, però pazienza, vabbè, cioè, a cavallo nato non si guarda in bocca. Assolutamente, noi continuiamo a domandarglielo chi glielo fa fare, però detto questo, credo che la strategia di cercare di portare un po' di conforto, un po' d'allegria, un po' di passatempo per noi, ma soprattutto per i nostri ascoltatori, stia veramente funzionando, perché l'incremento di queste settimane di dirette giornaliere, ed ecco che ci raggiunge appunto anche Girasole, è evidente e ci sta dando comunque delle gratifiche. Purtroppo lo ricordiamo in tutte le dirette, sì, purtroppo c'è il problema che la monetizzazione su Spreaker in queste settimane, in questi mesi, come purtroppo è naturale che succedesse, ha avuto un picco negativo, perché gli inserzionisti in questo momento non sanno bene cosa pubblicizzare, come investire i soldi, magari li conservano per quando usciremo dal lockdown. Quindi il nostro invito, come sempre, è: chi volesse, ovviamente non sentitevi obbligati, però se volete darci una mano, noi abbiamo dei canali attraverso i quali potete farci delle donazioni una tantum o mensili. Scoprire come è facile, potete leggere tutto su runtimeradio.it/anche io. Troverete fondamentalmente due modalità: aderire al nostro, patrocinare il nostro account Patreon con un paio di euro al mese, se potete, quello che volete, oppure dandoci una donazione una tantum attraverso paypal.me/runtimeradio. Come ricorda anche sempre il buon Simone Pizzi, se decidete di donarci un euro, non fatelo, non è perché non ci piacerebbe, non è perché ci fa schifo, non è perché diciamo che un euro è da pezzenti, ma è semplicemente perché, tolte le commissioni, voi spendete un euro, a Runtime non arriva niente e qualcun altro, il Ben Godi, lo fa la piattaforma. Quindi piuttosto veniteci a trovare in studio con un pezzo di pizza e una birra, siamo più contenti. Detto questo, i temi di oggi, ragazzi, perché i temi di oggi. Non si può fare. Ma io, prima dei temi, vorrei dare Tornando al campo, insomma, di gioco, in questo momento ci sono i vicini ripettai del terrazzo che hanno provveduto a dismantellare i panni stesi, tra cui un'altra punta arancione. Quindi, insomma, c'è stata un po' di azione concitata, ma adesso è tornato tutto quanto alla normalità. E invece, dal palcoscenico della strada, abbiamo visto il passaggio di una donna con i capelli corti che finivano esattamente quello sulla frangetta, esattamente all'attaccatura della mascherina, per cui sembrava un personaggio di un manga giapponese, di quelli strani dove non si vedono gli occhi, i pervertiti, quelli che si nascondono, sì. Ma era una donna, forse una pervertita. Poi è passata una ragazza che ha preso, diciamo, il consiglio di indossare i guanti, però erano di lana. Non so se è la stessa cosa, insomma, se vale allo stesso modo. Chiediamo al nostro tecnico. Tecnico? Sì? No, i guanti di lana valgono? Non valgono assolutamente, anzi. Anzi, è stata una delle prime cose che hanno detto, che i guanti di lana, quelli, diciamo, sportivi, quelli da portiere di calcio, no, ci vogliono quelli in silicone o in gomma che non presentano nessun punto di accesso. Quindi guanti di lana, figurati, filtrano. Tra cui anche quelli per infilarli. Quindi esatto, non ci deve essere neanche il buco per infilarli. Bravissimi, esatto. Avete capito bene. No, più che altro devono essere aderenti e devono chiudere al polso. C'è anche tutta una procedura per levarli, che vi giuro, ho provato a guardarla, mi è venuto un mal di testa fortissimo. Ho detto vabbè, piuttosto me li levo con le forbici. Però c'è tutto un sistema per levarseli senza entrare, sì, in contatto. Sì, brevemente questo sistema l'ha spiegato bene Barbara D'Urso, no? No, consta, sì, dell'immergere il guanto in una soluzione alcolica e dargli fuoco, una cosa del genere. Mentre è ancora immerso. Certo. Non sprechiamo alcol per questi usi faceti, beviamolo, scusa. Voglio lanciare un appello solidale, ma anche un appello istituzionale, e ovviamente lanciare un messaggio di positività. Bevete, ragazzi, comunque, bisogna bevere in questi, sì, periodi difficili. Comunque in questa giornata c'è il nuovo ingresso dell'elettrauto che è aperto, e quindi c'è del nuovo movimento, quindi, diciamo, la partita è più concitata del solito. In questo momento stanno revisionando un camion, praticamente una motrice di un camion. Oddio, revisionando, visto di chi stiamo parlando, non lo so, sabotando, può darsi, insomma, diciamo, revisionando, non utilizziamo termini, diciamo, antisportivi. Ma sono le più volte, cioè, sono... che mi sento parlare così bene di questo elettrauto. Guarda, è un tipo molto folcloristico, sono... della nostra zona. Esatto. Ah, ok. Cioè, comunque sono persone arrampicate tra muretti e portelli di accesso, è molto, molto dinamica l'azione. E invece, stranamente, il negozio Elementari Bangladesh è piuttosto tranquillo, e non c'è movimento tranne un paio di persone che sono entrate, ma molto, molto tranquille. Quindi diciamo che per il momento c'è un discreto vantaggio dell'elettrauto seguita a ruota dal dirimpettaio, che però in questo momento è sparito, e quindi potrebbe, cioè, la giornata potrebbe portarla a casa l'elettrauto. Poi va bene, allora nel caso richiedici la linea dal Cibali, forza, qualora, esatto, ci fossero aggiornamenti. Perfetto, a voi lo studio. Nel frattempo volevo portare la solidarietà, la nostra solidarietà, al buon Alex Arcuglia, che praticamente in chat ci stava spiegando adesso che la moglie gli ha tolto la chiave della distilleria dopo averla riempita, però, capito? La cattiveria di queste mogli che prima ti fanno fare scorta di vino e poi chiudono a chiave e non ti danno la chiave. Non si fa, bisogna bevere, come direbbero gli umbri. No vabbè, dipende da quello che ho fatto. Io per esempio, no, che mia moglie mi informa. Cosa aspetta? No, ripeti, facci ridire il commento perché non l'abbiamo sentito. No, mia moglie stava dicendo la restituzione non è ammessa, ma si stava riferendo al fatto che mi ha consegnato mio figlio, che è qui, che saluta, ciao. No, stavo dicendo, io Alex, bisogna capire che cosa ha fatto Alex per meritarsi tutto questo. Puoi spiegarcelo in privato o direttamente sulla magari scelta. Dopo ce lo viene a raccontare in diretta. Lui giustamente sottolinea il fatto che in tutto questo la moglie è anche sommelier, di conseguenza è istituzionalmente, come dire, investita dell'onere di avere le chiavi della distilleria, quindi insomma su questo non possiamo dire niente, è dovere assolutamente previsto dal giuramento deontologico. Esatto. Lei dice no, dice semplicemente non ingrassiamo, dice, ma in realtà dai, il bicchiere di vino non fa ingrassare, sicuramente lo fa molto di più la birra, mi viene da pensare, no? Però vabbè, porca miseria, non bisogna mai esagerare, però insomma quel per non usare direttamente l'Exotan, capito? Ecco. Il succedaneo degli psicofarmaci. Esatto, esatto. Tra l'altro nel frattempo Davide Gatti ci dice che lui invece sta mangiando delle Pringles alla pizza e fanno cagarissimo e non fatico a crederci, insomma. Già le Pringles di suo fanno cacare. Sì, no? Sì. Cioè, poi in realtà mi sono sempre chiesto cosa siano in realtà, perché sono un agglomerato artificiale, non sono patatine. No, sono pasta di patata pressata. Ma che è Euronics? Oh, attenzione. Sì, salve, desidera? Sì. No, perché a me quel frullatore, quello del coso, quello che non funziona bene. Guardi, li ha comprati due, così almeno non usava. Sì, esatto. Uno mi ci grattavo le palle di solito, però poi dopo. E quell'altro si è rotto. Io, ma lo devo riportare indietro. Lo scambi tranquillamente. Scambi le due, se si rompe pure quello, ce li può portare. Ma non è igienico. Vabbè, ma che importanza, cioè basta che... Guarda, l'importante la è che porta lo scontrino. Ma ha provato a spegnerlo e riaccenderlo? Ho provato a riavviarlo, no? Allora, guardi, lei deve spegnere e estrodurre. Mi state a prendere per culo, siete poco seri. Io penso che vado da Federconsumo e Vai, ma vai da Amazon, ma chi te se fila? No, cioè, ma che no, vuoi? No, mi è stata più a per culo, dai, inutile, mi fate schifo, cioè, ma che è il servizio questo? Un frullatore che funziona. Guarda, l'entrato di fronte te lo aggiusta se glielo porti, Arrivederci. Arrivedergliela. Cioè, piuttosto ho preferito mollare che andare. Sì, guarda, questi consumatori di oggi non sono mordaci come quelli di una volta. Ormai fanno un po' la parte, ma poi alla fine ricomprano, capito? Si rompe e loro ricomprano. È per questo che l'obsolescenza programmata è una scienza esatta. Perché tanto il consumatore ricompra. Beh, oddio. Io ho ampi esempi in famiglia di gente che piuttosto ha rinunciato a servizi piuttosto che ricomprarsi il cellulare. Però vabbè, dai, poi sono rinsaviti un po' tutti quanti. No, vabbè, io se c'è da fare una questione di principio, ti dico la verità, tendo a farla. Poi a seconda di quello che stiamo parlando, se è un oggetto di poco valore non vale la pena neanche perderci tempo, è ovvio. Però se è una cosa che insomma ti sei sudato, cerco un attimino anche di far valere il diritto. Poi ho conosciuto persone che hanno comprato 3-4 Xbox 360 all'epoca del Red Ring of Death, perché c'era la console d'elezione, il muletto, e poi magari anche qualche serie speciale così da collezione. Però veramente queste sono quelle cose che lasciano. Invece io sono l'unico stronzo a cui è bruciata solo una PlayStation 3, giuro. Povera. Cioè, non si è bruciata a nessuno, solo a me. Vabbè, diciamo che ogni prodotto può avere il suo margine di casi. Sì. Soprattutto ogni prodotto può avere il suo puccio, insomma. Esattamente. Ma io devo dire, sono abbastanza fortunato, non mi è mai capitato di avere... Non lo dire. Soprattutto adesso la tecnologia lo sa. La tecnologia avverte la paura, è come i cani. Se fate vedere un computer che avete paura che si rompa, lui si romperà. Ormai è andato. Approfitto per salutare il povero Peppe Rizzard, che non ci sta sentendo in questo momento, credo, non lo vedo palesemente in chat, che ha dovuto contattare un track proprio ieri, quindi un momento di lutto, ecco. Madonna, che brutta cosa. Tra l'altro per un SSD, peraltro. Ciao. Non la vedo bene, Peppe. Non la vedo bene. Vabbè, oddio, dipende, perché cioè se... Vabbè, non entriamo nei tecnicismi. Però se il banco di memoria è sano ed è soltanto la parte di alimentazione che è bruciata... Sì, devi trovare un donor che ti dà la logica saltata. Il discorso è che lui mi ha raccontato che praticamente il computer a un certo punto, senza nessun preavviso di malfunzionamento precedente, non si è risvegliato da uno stand-by. Quindi suppongo un problema di... stand-by. Ma che ti devo dire? Io per esempio lo uso consapevolmente. La sera metto il computer in stand by, la mattina lo riaccendo dalla tastiera esterna, proprio perché tengo il coperchio del portatile chiuso e lo attacco al computer esterno. Sì, pronto, dica. Senta, ci sta uno stronzo in finestra col telefono che sta a fare la spia a tutti quanti. Ah sì, no, guardi, è uno stalker, ma è innocuo, non fa male, non si preoccupi. Qua via principale di Monterotondo, quella... Sì, quello, guardi, lei sa che deve fare, non lo deve guardare negli occhi perché sennò diventa cattivo. Ma altrimenti non si preoccupi, dovete fare qualcosa. No, ma pure dovete fare qualcosa, andate alla resta, fate qualcosa. No, no, dovete fare qualcosa. Non è accettabile, guardi, non è una cosa. Sta lì, fa la spia, indica le persone. Guarda, guardi, quello, è già ai domiciliari, più di questo non possiamo fare. Ah, vabbè, vabbè. Basta che però fate qualcosa. Lo mandiamo ai domiciliari dalla suocera, signor Pizzi. Ah, bravo, non ce l'ha la suocera. E gliela dobbiamo prima procurare una suocera. Gliela troviamo, vabbè, preoccupate. Arrivederci. Buonasera. Si diverta, buonasera. Sì, saluti a casa, eh. Oh, dicevo, vabbè, niente, insomma, poi queste cose, questi tecnicismi magari li affrontiamo. Magari, ecco, sarebbe carino una di queste volte, facciamo una live proprio di cose tecniche, magari con il buon Davide, con Alex, con voi, insomma, chi ha voglia di farlo, e parliamo proprio di cose iper nerd, proprio di come aggiustiamo le cose che ci si rompono, cosa facciamo, cioè proprio così, potrebbe essere veramente una chiacchierata estemporanea da tre ascoltatori, però vediamo che viene fuori, magari poi ne parliamo in redazione. Vabbè ragazzi, io sono preoccupato perché non vedo uscire, perlomeno su Open, i dati giornalieri del nostro del nostro Montarozzo, del nostro, come l'abbiamo chiamato? Su Repubblica ci sono, ragazzi. Allora dai, dacceli così poi passiamo Repubblica ad altri temi. Allora insieme alla teoria del complotto cinese? Sì, assolutamente. Va bene, poi mettiamo anche quella. Guardate, l'unica cosa che dice Repubblica in questo momento: al minimo la percentuale di tamponi positivi, terapia intensiva, ci sono 1000 persone in meno rispetto a 14 giorni fa, però ancora non stanno riportando i dati precisi. Allora probabilmente sono un po' in ritardo sulla conferenza stampa. No, la conferenza è sul sito dell'ANSA, la vedo che si sta svolgendo, però su Open la prima pagina è ancora sulla presentazione Milano Cortina. Di solito la conferenza stampa comunque sia parte quando i dati sono stati già comunicati agli organi di stampa, perché se non ricordo male le testate ricevono i numeri intorno alle 17 e poi più o meno in sincrono con la conferenza stampa vengono pubblicati. Probabilmente oggi si è inceppato il PowerPoint, chi lo sa? E chi lo sa, oppure semplicemente l'addetto stampa della Protezione Civile sta in pausa caffè, cazzo ne sappiamo. Che mi sembra una cosa sempre nobile comunque la pausa assolutamente caffè. Sì, in compenso pare che in Molise da 2 giorni sono a contagio zero, quindi ragazzi, questo confermerebbe le tesi che il Molise non esiste. Esatto, o perlomeno esiste ed è vuoto, quindi. Esatto. No, tra l'altro, a proposito di giornate strane, oggi stamattina mi è successo, a proposito di pausa caffè, mi è successa una cosa stranissima. Voglio farmi allegramente prendere in giro da tutti voi e quindi ne parliamo. Praticamente cosa ho fatto stamattina intorno alle 10:30, dopo la mia prima oretta di lavoro davanti al computer, come faccio tutte le mattine, sono andato in cucina, ho caricato la macchinetta del caffè, ho fatto il mio bel caffè, l'ho versato in tazza e me lo sono portato in postazione. Dopo qualche minuto l'ho anche bevuto e mi sono detto: adesso sapete che faccio? Vado subito a lavare la tazzina, così non mi si sedimenta al fondo del caffè. Non mi chiedete perché, per come, io non so la mia testa che mi ha detto in quel momento preciso. Sono andato a lavare la tazzina, ma l'ho lavata nel lavandino del bagno. Sono i primi esempi di crackdown da quarantena. Alter. Sì, ma secondo me stai perdendo la disposizione spaziale della casa. Ma probabilmente. Poi ho guardato, ho alzato lo sguardo e ho detto: specchio, ma io non ho specchio in camera, in cucina. Ha detto: certo, questo è il bagno, mi sembra giusto. Vabbè, insomma, è andato potevi così. Poteva andarti peggio, potevi dire: scusa, ma lì chi cazzo è che ci fa in casa mia, in cucina, davanti al mio lavandino? Guarda, fino a che non lavi i piatti nel bidet, se può anche ma quando nella tazza del cesso, che è peggio ancora. Ricordo che una notte, ma credo avessi 13-14 anni, andai in bagno a fare la pipì. A un certo punto mi stropicciai gli occhi mentre facevo pipì e vidi la mia immagine riflessa nello specchio. Io dissi: ma io mica ho uno specchio davanti al cesso. Guardato in basso, stavo facendo la pipì nel bidet, piacere. Vabbè, dai, capita. Sì, per carità, però insomma. Beh, posso capire nel cuore della notte, specchio, insomma, nel dormiveglia. Davanti al bidet. No, mi hai ricordato un epic fail storico, solo che io ho l'aggravante di averlo fatto davanti a mio padre. In pratica, una sera sono tornato a casa, diciamo ubriaco, in realtà non penso, non solo, diciamo, era un periodo abbastanza movimentato della mia vita. Mi sono fiondato dentro il letto, non calcolando che mio padre stava tornando dall'ospedale dove aveva fatto partorire una signora. Io, sentendo che stava salendo, non potevo spegnere la luce perché l'aveva vista probabilmente, ho detto: vabbè, gli faccio credere che non riesco a dormire, sto leggendo. Ho aperto, la prima cosa che mi è capitata sotto mano, mio padre apre la porta, mi guarda, fa: ma sei tornato ora? No. Puccio, tutto bene? Sì, perché? No, per curiosità, mai bevuto? Sei uscito con gli amici? No, no, perché? Perché stai leggendo L'Uomo Ragno al contrario. Vabbè, è un classicone, fatemelo dire. È proprio la classica scena da sceneggiatura, questa. Sì, sì. Poi mi abbiamo guardato sconsolato. Poi secondo me tu avresti dovuto tenere il punto e dire: beh, L'Uomo Ragno si legge così. Oggi il fumetto ti metti a testa in giù tu. È ovvio, no? Ci ho pensato la mattina dopo, ti dico la verità. Ma ormai ero fuori tempo massimo. E già sai che non mi ha fatto l'antidoping la mattina dopo. Quindi vabbè, andata anche sì, bene, insomma, come dai. Sono quelle stagioni della vita che si sa. Sì, i 17-18 anni. Vabbè, Marco, tu ci hai accennato di un complotto. Io a questo punto sono curioso e voglio complottistare. Dimmi. No, chiedevo se era che sia la Repubblica è sempre uno di quei siti che non pubblica, fai fake news o cazzate che possono. Quindi chiedevo se era stata messa, diciamo, insieme la notizia delle statistiche di oggi, erano state messe insieme alle fake news cinesi, qualcosa del genere. Insomma, no, un attimo, abbiamo i dati sul sito dell'ANSA, ragazzi, 1127 malati più di ieri, però hanno fatto un fottio di tamponi, in percentuale sono di meno, 578 vittime e 962 guariti. Siamo ancora nel sto pianoro che praticamente è una linea retta perfetta che ci porteremo per settimane. Io ne faccio più, perché in realtà devi tenere presente che noi purtroppo ci stiamo portando dietro la modalità comunicativa dell'inizio, in cui la protezione civile ti diceva i numeri, non le percentuali. In questo momento noi facciamo tantissimi tamponi in più rispetto all'inizio, quindi abbiamo percentualmente in realtà un incremento più basso. Prima molti non li vedevamo, ora vediamo, facciamo molto più screening e in percentuale rispetto a quello che facciamo prima il numero dei contagi in realtà è inferiore, la percentuale di contagiati per infornata di tamponi è inferiore, quindi comunque scendiamo in assoluto. Non velocemente, ma scendiamo. No, no, ma che stiamo scendendo, sì. Quello che è faticoso da sostenere per quanto mi riguarda è la velocità con cui scendiamo. Poi, che vi devo dire? Mi auguro che si cominci a ragionare a compartimenti e si comincino magari a far ripartire le regioni dove l'incidenza del virus non è mai stata particolarmente alta. Quindi fondamentalmente tutto il centro-sud potrebbe tranquillamente ripartire, perché se continuiamo così. Però vabbè, insomma, dai, non facciamo sempre, se no diciamo sempre le stesse cose. Tra l'altro, mentre Davide scriveva del fatto che oggi è uscito l'iPhone SE, ho dato una sbirciata al volo, ma insomma ero incuriosito più del prezzo che delle caratteristiche, perché bene o male si era liccato già tutto. Alla fine, come dire, è visivamente simile all'iPhone 8, con all'interno molte delle componenti comuni degli iPhone 11. E boh, sinceramente Apple finalmente a quanto pare ha capito che deve comunque presidiare almeno la fascia media del mercato degli smartphone. Infatti parte da 500 euro per il modello a 64 giga con il processore A11 euro per me è fascia comunque alta, cioè. Beh, per quanto mi riguarda. Sì, sì, no, per carità, voglio dire, il mio telefono è costato meno di quella cifra. Però quantomeno si cominciano a collocare su una fascia di prezzo che loro non avevano mai voluto esplorare. Poi a vederlo è effettivamente il telefono di 2-3 anni fa, né più né meno, con all'interno un hardware migliorato, è più piccolo, pieno di bordi. A vederlo sembra quasi anacronistico, però vabbè, vediamo, dai. Vediamo magari in base a quanto venderà, magari Apple comincerà ad esplorare in maniera un pochino più decisa strategie di prodotti e di prezzi, anche per chi non ha la tasca stragonfia o per chi non si vuole fare il ratino eterno dell'operazione. Operatore. Comunque niente, Girasole mi tranquillizzava sulla questione del fatto che sono andato in bagno invece che in cucina a lavare la tazzina. Dice: tranquillizzati, perché avendo fatto il percorso più breve, dice che il mio cervello ha elaborato il percorso migliore. Dai, vai, ci sta, ma sì, chi se ne frega. Invece, a proposito di percorsi, uno dei temi di cui oggi volevo parlare con voi è questa notizia che stavo leggendo oggi su Repubblica, secondo cui, questo non so se avete letto, nei giorni scorsi, soprattutto a Pasqua, a Pasquetta. La notizia nasce dal fatto che una deputata ex Movimento 5 Stelle, che poi è passata al gruppo misto perché per le sue posizioni drammaticamente Novax, era stata espulsa dal Movimento 5 Stelle, era stata figuratevi. Esatto, esatto. Che era stata beccata sociale sulla via del mare, quindi sulla strada verso Ostia. Sì, è assistenza sociale. Aspetta un attimo, assistenza sociale. Che uno che sì, ha bisogno. Sì. Ci dica cosa è successo. No, no, guardi, c'è stato un terrone che invece di occuparsi dei figli, che senti che piangono dietro, no? Sta lì, gioca col computer, sta con i microfoni, non so che cazzo fa. Guardi, io non lo so, è tutto il giorno una cosa vergognosa. No, no, l'uomo. Guardi, mi scusi, non diffondiamo fake news. Quello che sente piangere nello sfondo è la cena. No, guardi, fake news. Lo dice lei, perché io non so neanche che significhi. Quindi, io non so manco chi sono. Esatto, quindi intervenite, fate qualcosa, se no vanno quello al terzo piano lì. Mandacelo, vediamo un po' che succede. Sono curioso, voglio vedere il Fight Club a casa di Gualdi, voglio vedere. Vabbè, allora non mi state a prendere sul serio. Siete state stronzi tutti quanti. Se non, guarda, devi fare due cose per essere preso sul serio, quantomeno: o minacci di indossare una cintura esplosiva e di farti esplodere a Piazza Pelosi, così, oppure non lo so, una cosa eclatante, se no, insomma, come facciamo? Secondo me si deve cospargere di amuchina. Con quello che costa adesso, sai che cara gli costa, no, infatti, no? Assolutamente. Lo so, però è una cosa importante, un gesto importante. Voi che siete a Monte Rotondo, magari hanno chiuso le farmacie, che secondo me c'è gente che non sta a pigliare le goccine. Ma sì, ma quello secondo me in parecchie zone d'Italia, guarda. signori miei, ma torniamo a Sara Cugnal e alla sua, esatto, fantastica... questa ex deputata 5 Stelle, adesso al gruppo misto, perché ovviamente, voglio dire, non sia mai che molli la poltroncina. Dichiaratissima Novax, è stata fermata, credo sulla via del mare, quindi in direzione Ostia, a Pasqua, a Pasquetta, e alla contestazione delle forze dell'ordine lei ha dichiarato che in quanto parlamentare della Repubblica ha il diritto di muoversi liberamente nell'esercizio delle sue funzioni. Andare al mare mi sembra ovviamente un esercizio della funzione parlamentare. Oh, da cui poi è nato tutto un caso, perché il deputato leghista Claudio Borghi, che voglio dire, non so se è più deputato o più esperto di alta finanza o più imbecille, cioè vabbè, insomma, capito, no? Ha praticamente chiamato in causa entrambi i presidenti dei rami del Parlamento, quindi Roberto Fico da una parte, la Bruti Casellati dall'altro, dicendo che ha avuto notizia di deputati e senatori fermati dalla polizia, e ha chiesto che si ribadisse il fatto che un parlamentare, secondo lui, ha pieno diritto di muoversi per tutto il territorio nazionale perché è parte integrante del suo ufficio. No, ora io dico, no. Per me, se tu sei un parlamentare, il tuo lavoro è andare quando convocato all'ufficio della Camera, all'ufficio del Senato, a partecipare a tutte le votazioni, a tutte le sedute che si fanno, in rispetto del mandato per i quali gli elettori ti hanno eletto e ti hanno fatto sedere lì. Il resto è campagna elettorale che tu fai con i soldi del contribuente. Cioè, teoricamente potresti spostarti all'interno del tuo collegio elettorale perché magari i tuoi elettori ti hanno chiamato per segnalarti qualcosa. È una scappatoia che è stata usata in questi giorni, ma che un fondamento costituzionale ce l'ha. Andarsene al mare, no. Cioè, non mi risulta faccia parte delle prerogative della carica di parlamentare. No, il problema è che la Cugnal, che non è residente a Roma, per fare l'esempio, si è difesa dicendo che siccome lei non ha una casa a Roma, si sposta di frequente da una sistemazione temporanea all'altra. E poi comunque a Pasquetta, ma dove cazzo vai? Cazzo è Apolide, un senza tetto. Con la camera chiusa, tra l'altro. Vabbè, ma la cosa brutta, ora, al di là del caso della deputata Novax, il problema è che poi i parlamentari, deputati e senatori su questa cosa hanno cercato, soprattutto quelli di centrodestra, hanno cercato di rivendicare un diritto assolutamente arbitrario, secondo me. Voi che ne dite? Lo chiedo anche in chat. Secondo voi, i senatori e i deputati della Repubblica Italiana hanno il diritto di avere delle libertà di movimento maggiori delle nostre in quanto stanno svolgendo qualche funzione? Lo stesso Salvini, che fa la spola da Milano a Roma, a titolo di cosa, che non è più neanche al governo? Beh, al governo no, comunque parlamentare, in caso, vabbè, già non ci lavorava quando era ministro, figurati se ci lavora, che è, tra virgolette, semplicemente un parlamentare, no. Assolutamente, ragazzi, è un abuso e mi pare anche abbastanza evidente. Non è la carta per uscire di galera il tesserino da parlamentare. Ma se la giocano sempre così, assoluta. Come quello che ai primi tempi della, ai primissimi giorni del lockdown fu fermato, questo era di Forza Italia se non ricordo male, fu strano. Fermato che faceva jogging a Villa Borghese a Roma, e per cercare fondamentalmente di scongiurare la contestazione aveva indossato una tutina della Camera dei Deputati. Io non sapevo neanche che gli dessero le tute. Fatto sta, insomma, che ha cercato di mettere bene in evidenza il marchio per far capire, così, cioè, lei non sa chi sono io, ma glielo sto facendo vedere. Cioè, quindi se io domani mattina esco, cacchio ne so, con la maglietta Senato della Repubblica, posso andare a giocare a calcio? No, ma per favore. Si può giocare a calcio da solo, però contro il muro. Oppure chiamo 11 amici, facciamo 11 persone con la maglia Senato, 11 persone con la maglia Camera dei Deputati. Diciamo, Senato con senatori contro deputati. Senatori contro deputati. La partita del cuore, assolutamente. No, ragazzi, non che storiacce, dubbi. Che storiacce. E vabbè, comunque, per esempio, Alex dice: a me, se una deputata si dichiara Novax, la si spara in testa all'istante. Non ha, diciamo che non ha tutti i torti, diciamo, come dire, è una posizione un po' estrema, un po' rigida, ma insomma severa ma giusta, si potrebbe dire. Ah, non so se avete seguito, però al di là dei parlamentari c'è anche altra gente a cui il cervello ha cominciato a dare evidentemente di aceto. Non so se è un'espressione che si usa fuori Bari, perdonate. Sì, andare d'aceto, sì. Va bene, non so se avete presente, c'è un giornalista, immaginate che sto facendo le virgolette con le dita tipo film di Tarantino, sì. Che è Filippo Facci, Libero e altre carta per incartare il pesce, che ha fatto questo fantastico post su questo tweet in cui c'è lui che si sta infilando i calzini, letteralmente, e ha scritto: io domani, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, eserciterò il mio diritto alla libertà e uscirò di casa per andare dove cavolo mi pare e risponderò così se qualcuno dovesse fermarmi. La prima reazione è stata di un'infermiera dicendo: guarda, a quelli come te dovrebbero fare un segno sul torace, così se ci capita in ospedale sappiamo che vi dobbiamo intubare per ultimi. No, ma secondo me dovrebbe essere semplicemente una, come dire, un'attestazione di rinuncia alle cure. Visto che la sanità in Italia è pubblica, uno così non deve essere curato, semplicemente. Bisogna utilizzare curi per ultimo, giustamente. Voi avete presente, cioè, un autore di fumetti, ma anche televisivo, la serie Castlevania su Netflix, che vi piace o meno, è scritta da un autore di fumetti molto bravo che si chiama Warren Ellis, che qualche anno fa ha detto che si voleva far tatuare sul petto: tu, brutto paramedico pigro, continua a scaricarmi addosso il defibrillatore o quando diventerò un fantasma infesterò casa tua. Possiamo applicare teorie del genere, tipo: sono uscito per cazzi miei durante la quarantena, non curatemi. Anatema decisamente carino, peraltro. Vabbè, comunque, ragazzi. Che dura vita, ragazzi, che dura vita, che vi devo dire? Vabbè, comunque quella sia. Del parlamentare. Porelli, guarda, poi fanno una vita dura, sono sempre in viaggio, guarda, guadagnano due soldi, hanno i portaborse, proprio una vita. Ma poi si devono anche svegliare presto, magari per andare ospite in TV, ma che scherzo. Capito, che soprattutto alla 7, che questi c'hanno, alla 7 c'hanno il vizio di iniziare presto la mattina. Ah, oh, minchia, alle 7:30 c'è già gente in televisione. C'è gente che dorme lì la sera prima, secondo me. C'è gente che fa la maratona durante la notte. Comunque, ragazzi, avete notato che da quando non c'è più il pubblico nei talk show, i talk show sono notevolmente migliorati? No, perché non li guardo per definizione. No, infatti, no, io ogni tanto un occhio glielo do. Sono diventato, cioè, da quando non ci sono più le clac dei vari ospiti, mi sembrano diventati persino più ascoltabili. Guarda, io sinceramente, tranne qualche raro programma di divulgazione, credo che l'unico programma diciamo con un'interazione, chiamiamola, con un pubblico che guardo abitualmente è Propaganda Live. Per il resto, per il resto niente, credo niente. Perché, però, ma non perché, è una questione a priori, non mi interessa il tipo di prodotto, non è che perché parlano in un modo piuttosto che in un altro, perché magari non mi piace quel conduttore piuttosto che l'altro, è proprio il format che mi annoia alquanto. Sento dei rumori in sottofondo, ragazzi. Ma lei è la buon costume? Dica. C'è uno velato che, raga, va denunciato perché è troppo brutto, cioè è proprio brutto, non si può fare. Guardi, non esiste una legge sulla bruttezza, cioè. Però è sbagliato. Questa lo so, cosa ma che... guardi, purtroppo è così, cioè, se guardi, vuole, se ci fosse una legge per la bruttezza diventa... la russa sarebbe all'ergastolo. Ma come sappiamo non è così. Può candidarsi però volendo e può far portare al Parlamento la sua idea, la sua teoria, insomma. Penso che accadrà questo, dovrò fare un mio movimento per proporre una legge. No, che... guardi, i movimenti no, lasci stare i movimenti. Crei un partito che è meglio. Faccia l'azione. Guardi, ci sono movimenti importanti che a volte ci danno anche grosse soddisfazioni. Quelli intestinali, per esempio. Sì, esatto. Intestinali so, a volte fanno il loro dovere, ci rendono il corpo più gioioso, insomma, diciamo. E quale migliore palcoscenico per dirlo se non quello di OGM? Oltranzisti gastricamente maleducati. Esatto. Vabbè, quindi niente, non si può denunciare uno perché è brutto. Guardi, lei faccia una cosa. Lei faccia un'autocertificazione. Va bene. Di bruttezza. Posso scrivere la radio? Ma come no? Guardi, come se stesse allo specchio, guardi. Vuole dedicare una canzone a qualcuno, dato che ci siamo. Ah, bello, questo mi piace. Io voglio dedicare Lella. Posso dedicare Lella a mia moglie. Che non è un avvertimento, Ma quindi lei ci sta dicendo che lei è il... ti menerei. No, mi scusi, quindi, lei è il genero di Proietti il cravattaro? Bravo, esatto. Bravo. Però dietelo per te, cioè. E qui scatta la denunzia. Allora io denuncio lei perché è brutto, e lei denuncia me perché sono un assassino. Bene, voglio dire, vediamo chi la spunta poi. Vediamo cosa viene fuori. Una degli appositi tribunali, certo. Va bene, arrivederci, sì. È stato sempre un piacere. Questo penso che sia l'ultimo intervento. Non ho guardi più come fosse casa sua. Fanni pure quando vuole. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Io interrompo perché sta passando in questo momento una signora con una bellissima mascherina blu a pua bianchi. Insomma, mazza, ormai sta diventando un fashion anche la mascherina, eh? Sì, assolutamente. Sarà stato un canovaccio che ha fatto a Brandelli. La signora, mentre c'è ancora movimento intorno alla motrice, nello stesso istante è entrato un uomo nel negozio del Bangladesh, ma non ci sono azioni diciamo, importanti al suo interno. Mentre è uscito Rolando, attenzione, sta raccogliendo una catena che era caduta a terra, quindi diciamo, un'azione molto concitata, sta tirandola, ecco, si è allungata la catena sulla fascia e adesso la sta rimontando. Cioè, momenti epici. Pensavo la stesse usando per menare qualcuno. E ho aspettato infatti una cosa del genere, ma non c'era nessuno su cui provare, insomma, la frusta della catena. Delusione, la catena di Andromeda. Vabbè ragazzi, io vi chiedo un minuto di pausa perché adesso vi faccio partire un piccolo contributo, perché prendiamo 30 secondi per raccontarvi una novità che riguarda Runtime, ma che riguarda anche YouTube, con un piccolo spot direttamente dal nostro canale Survival Hacking di Davide Gatti. Ciao a tutti, sono Davide Gatti e tutti voi mi conoscerete per il podcast Survival Hacking. Buono, ma facciamo parlare di nuovo Simone, così ti tranquillizzi. Dove vi provo a raccontare le mie avventure, mettendoci la faccia e anche le mani. Dai, vi aspetto. Il canale lo trovate su www.survivalhacking.it. Vi aspetto numerosi. E mentre sentiamo anche in sottofondo il buon pupetto che giustamente dice la sua, salutiamo anche al 9000 che ci ha raggiunto adesso. E piccola nota per la redazione: ricordatemi di comprare una batteria per il mouse. Che è rimasto senza. No, di noi così sono quelle cose che succedono ovviamente nel momento peggiore in cui possano succedere. Insomma, un po' come il preservativo rotto, no? Bam! Va bene, ragazzi. No, che dire, compratevi invece... le batterie ricaricabili, scusate. No, guarda, no? Ti posso dire, io sono contrario, perché hanno un problema pratico, secondo me. E cioè il fatto che la resa della carica è bassa, cioè è vero, le ricarichi tutte le volte che vuoi, ma le ricarichi mediamente una volta ogni settimana, ogni due settimane. Invece a me una stilo nel mouse a basso consumo della Logitech dura un anno, è per quello che ora non ho la batteria di ricambio, perché durano talmente tanto che poi ti dimentichi di avere i ricambi. No, io l'ebbrezza di avere una batteria che dura più di due mesi non l'ho mai avuta. Sarà che io ho il designer mouse di Microsoft, quello Bluetooth figo, ma che consuma come un cellulare praticamente. Guarda, non so se abbiamo lo stesso. Io ho per il computer, io vabbè, ho due postazioni, quella principale, ho l'accoppiata mouse e tastiera Microsoft Bluetooth, quindi quelli molto di design neri, sì, piatti. Sì, sì, presente, piatti, okay. belli tutti e due. E poi ho mouse Logitech per l'altro computer da cui faccio la regia, che vabbè, insomma. Però devo dire che la batteria dura tantissimo. No, io grazie a Dio sul fisso c'ho un Razer Naga, però col cavo, perché col cazzo che c'ho il mouse da gaming wireless. Non sia mai la latenza, insomma, certo. No, assolutamente. Cioè io non è che giochi a sti cazzo di giochi d'azione, però mi dà fastidio. Già mi dà fastidio quando gioco col pad e mi si scarica la batteria mentre sto giocando, come è successo ieri a Doom, ma sorvoliamo. Quelli wireless li uso solo con i portatili, perché poi me li ficco nella borsa e me li porto dietro. Io a lavorare col trackpad non sono buono, non ce la faccio proprio. No, io stavo leggendo in chat, perché il buon Davide ci dava anche una spiegazione su cui non avevo mai fatto effettivamente posto l'attenzione. Cioè le batterie stilo tipiche sono da 1,5 volt. In realtà, dice Davide, la percezione che siano scariche prima del dovuto nasce dal fatto che, siccome in realtà quelle ricaricabili sono da 1.2 volt, i sistemi che fanno il check della carica residui, quando scende poco sotto l'1.2 volt, le considerano già scariche. Ah beh, sì, è vero. Cioè come il toner delle stampanti, che viene considerato scarico anche se non lo è, perché il chip della cartuccia sa che può fare un determinato numero di stampe e poi basta. Sì, sì, vabbè, quelle poi sono tutte appunto speculazioni sui consumabili, però vabbè, insomma, poi magari ne parliamo sempre in un ipotetico podcast tecno-nerdone anche con Davide e gli altri, insomma, mi farebbe piacere. Invece vi volevo chiedere, e su questo non so poi se ci raggiungerà anche qualche altro nostro accolito radiofonico, se avete visto un po' di trailer e di lanci pubblicitari della serie che inizia venerdì su Sky, che si chiama Diavoli. Sì, ho visto i trailer. Sì, ho visto i trailer. Sai che mi lascia perplesso? Cioè, non lo so, a parte che. Ma parla del Milan. Di che cosa sì, parla? Assolutamente. Sì, assolutamente. La storia del cuoco cinese che ha comprato il Milan. Esatto. O del muratore thailandese. Secondo me sarebbe una grande storia quella del cinese che ha comprato il Milan. Cioè, secondo me sarebbe una grande storia di intrighi internazionali. È altra finanza. Poi vogliela spiegare che magari era un prestanome di Berlusconi. Questa è una tesi su cui hanno indagato molto anche, credo, la Guardia di Finanza di Milano, e credo che ci siano ancora delle indagini in corso su quella fase un po' oscura della gestione del Milan. Ma non vorrei di inesattezze, però. Vabbè, ancora stanno a indagare sulla cessione di Maldini. Non vorrei dire. Scusa, di Maldini, com'è che era? Di Lentini. Tanto vabbè, il processo lì non è chiuso, quindi. Lì ci furono veramente. Vabbè, comunque, sì. Insomma, questa serie Diavoli è una serie internazionale prodotta da Sky Atlantic. È un thriller ambientato nel mondo dell'alta finanza, se ho capito bene, a cominciare dal 2011, quindi l'anno in cui ci fu una delle più grandi crisi finanziarie, insomma, dopo quella del 2008. E la cosa particolare di questa serie, quello che mi ha veramente incuriosito, è che, essendoci un cast internazionale, ma anche di attori, ne abbiamo parlato l'altro giorno, di attori noti in Italia e attori italiani, abbiamo tra i protagonisti il dottor Stranamore Patrick Dempsey, quindi l'ex dottor son cavolo io di Grey's Anatomy, Alessandro Borghi, che per noi è numero 8 di Suburra, per chi l'ha visto, oppure è stato anche il protagonista della ricostruzione del caso di Stefano Cucchi su Netflix, che è un attore romano, è un bravissimo attore, però in questo film, in questa serie, pardon, viene doppiato da Marco Mete. La serie è stata girata tutta in inglese, di conseguenza è normale che poi i doppiatori che i personaggi si ridoppino in italiano. La cosa particolare è che, se da una parte abbiamo Kasia Smutniak che si doppia da sola, la mia ipotesi è: perché deve rappresentare un personaggio non italiano, quindi parla in italiano con un leggero accento straniero? Me la sono spiegata così. Dall'altra abbiamo però invece appunto Alessandro Borghi, che viene doppiato da Marco Mete, che è un doppiatore bravissimo. Per fare un esempio lampante, è il doppiatore di Chris Pratt, quindi di Star-Lord dei Guardiani della Galassia. Ha doppiato anche Joseph Gordon-Levitt in più di un film. Insomma, è un doppiatore famoso e sulla cresta dell'onda. Però sentir parlare una faccia, un viso che conosci molto bene nel suo modo naturale di parlare, con una voce impostata da doppiatore, quindi sostanzialmente neutralizzata nell'accento, nelle cadenze, è veramente veramente strano. A me fa un effetto veramente disorientante. Forse perché si sentiva troppo, magari non volevano far sentire troppa romanosità, probabilmente. Cioè, quindi noi stiamo dando per scontato, questa è la mia una domanda, stiamo dando per scontato che Alessandro Borghi non abbia le capacità attoriali per azzerare il suo accento quanto basta, quindi il classico attore che è bravo solo a fare il personaggio di Roma? Che ne so. No, in effetti l'avete mai sentito fare un personaggio di una zona geografica diversa? Io sto facendo mente locale, non mi ricordo. No, vabbè, c'è da dire che insomma lui è diventato famoso negli ultimi anni, ha fatto sempre ruoli abbastanza complessi, perché comunque sia non fa mai, come dire, quello allegro e solare, anche nel film Fortunata con in cui recita con un'attrice che adesso mi sfugge il nome, aspettate che vado a googolare. Guarda un po'. E lei è la protagonista, il film tra l'altro è di Sergio Castellitto, e la protagonista è il film è tratto anche da un libro di Margaret Mazzantini, tanto per cambiare, e lei è Jasmine Trinca, che è la protagonista del film. C'è anche Stefano Accorsi, vabbè, però in una parte minore c'è sempre nella parte di un personaggio mentalmente instabile, c'è appunto Alessandro Borghi. E anche lì ovviamente c'è un personaggio abbastanza caratterizzato nella sua romanità, per cui boh, probabilmente è così, non è tagliato per no, un senso. Chi può dirlo? Ma insomma, lo vedrete, pensate. No, io non penso in realtà, però penso che ci avrà un pubblico femminile particolarmente nutrito. Beh sì, tra Patrick Dempsey e lui probabilmente sì. Beh, anche noi maschietti possiamo essere contenti. Cassia Smutniak è una bellissima donna, della quale sarò sempre, come dire, verso la quale mi porrò sempre la domanda: ma perché con Taricone? Però vabbè, Ma guarda che non era brutto Taricone, secondo me è neanche stupido che poi abbia recitato un personaggio e ci no, sei no, per carità, assenato. Assolutamente, ma la mia era voleva essere anche un po' una battuta, insomma. No, cioè mica è Tomba in Alex Lariete, ricordiamo. No, tra l'altro poi voglio dire, ha avuto anche una discreta diciamo carriera di attore prevalentemente televisivo, non è che abbia brillato in ruoli da premio Oscar, però insomma si è saputo dare una dignità dopo Il Grande Fratello, assolutamente sì. E Michela nel frattempo in chat ci ricorda che il doppiaggio è una cosa seria, se non è studiato come doppiatore è difficile che tu possa farlo. Guarda, io ma su ti dico solo una cosa, un nome e cognome, che è la bellissima Jessica, no, come si chiamava, aspetta, vabbè, la cagna, dai, oh cazzo, ma c'è un attimo di ma la prima cagna, tu dici? Bellucci. Ah, ok, no, pensavo che tu intendessi, ci stessi citando Boris, cagna maledetta. Pensavo intendessi lei. Bellucci, un po' cagna maledetta. Se senti come si doppia, cioè veramente no. Chi di noi ha visto Matrix Reloaded? Dammi un bacio come lo daresti a lei. Vabbè, allora Bellucci, partiamo da un presupposto: la Bellucci non è mai stata molto brava a recitare in generale. Poi quando ha cominciato, io non me ne sono mai accorto, vi giuro. Poi ha cominciato ad atteggiarsi a fare la finta francese, quindi a calcare questa specie di zeppola in maniera anche immotivata, e poi il risultato è stato drastico. Però se la vogliamo ricordare, per esempio, nei mitici Colpo Gobbo a Milano, lei era divertentissima quando faceva un po' praticamente il personaggio con la cadenza Folignate, perché lei comunque è umbra d'origine. Ragazzi, io l'ho trovata molto divertente. Ma quello era, cioè, quello è. Sì, sì, è chiaro. Poi è chiaro, quando più di un, più che un personaggio inizi a interpretare quasi te stesso, il risultato è sempre migliore. Un po' come Carlo Verdone, che fa un personaggio bellissimo in Nella grande bellezza di Sorrentino, ma semplicemente perché ha raccontato il vero Carlo Verdone fuori, dal, fuori dai set, cioè un ipocondriaco un po' fuori di testa. E così, insomma, ma sono vabbè, anche in qualche film, si è, tipo, me l'hai detto il giorno che ti ho incontrato. Si è, no, lui si è sempre rappresentato nella, però in una maniera, diciamo, abbastanza, come dire, gioviale, in una maniera sempre, come dire, anche un po' scherzosa, c'ha sempre riso su, però in realtà credo che lui sia veramente un personaggio particolarmente problematico dal punto di vista dell'ipocondria. Insomma, ricordo una volta raccontò Fabio Volo in radio di un viaggio che fecero insieme per andare a fare la conferenze, le conferenze prelancio di uno, di un film in cui apparsero insieme, apparvero. E salirono su questo aereo privato, piccolo charter, per andare a Milano da Roma. Dice Verdone, guardandolo, dice: ma che è, una TAC? Stava già in crisi da, in crisi da di claustrofobia, insomma. E come Al 9000 ci cita: ma che me sta scippar culo? Esatto, la citazione era esattamente i mitici Colpo Gobbo a Milano. Quel film è una piccola perla, secondo me, ragazzi, spesso e volentieri sottovalutata sotto tutti i punti di vista, perché è divertente, è carino, ha lanciato un sacco di, un sacco di attori e personaggi, insomma. C'è Ricky Memphis proprio a inizio carriera, tipo. Sì, giovanissimo. Il giovanissimo Riccardo Fortunati, ecco, ragazzi, per esempio, perché... Ricky Memphis, per fare, cioè, che parla perfettamente italiano, io non me lo ricordo. No, lui però Ricky Memphis lo puoi annoverare tra i caratteristi, nel senso che, come dire, Non lo so, è un attore di genere, non, ma è che spazia molto. Se fa una cosa, parla in italiano preciso, ma in qualche fiction ci hanno anche provato a fargli fare il personaggio un po' altolocato, un po' acculturato, e non gli è venuto bene, sinceramente. Lui, è, lui sarà sempre il commissario di squadra di distretto di polizia, non ricordo, il commissario Belli, ecco. Commissario Belli, giusto, sto per dirlo io. Come si chiamava invece quell'altro, quello siciliano, che nella sua vita ha fatto due ruoli, il poliziotto siciliano o il mafioso? Cacchio era, non mi ricordo più il cognome, vabbè, Tony Sperandeo. Tony Sperandeo. Che c'era anche nei mitici, certo, che fa... Ah, è vero, c'era anche lì, è vero. Vedi come l'esperto di idraulica. Esatto. In quel film c'era chiunque che poi ha fatto più o meno carriera. C'era anche Umberto Smaila che faceva il gioielliere omosessuale. Anche lì, permettetemi di dire, Umberto Smaila faceva Umberto Smaila. Ma sì, oddio. Oddio, non so se hai mai visto qualche filmato non proprio ufficiale dai locali sardi dove lui... Sì, no, in realtà per un po'... Personaggio particolare, locale... colorato, insomma. Ha avuto un locale a Bari per un po' di tempo, però diciamo che le informazioni che ci erano arrivate erano di indirizzo contrario. Ma dai, non lo sapevo, il locale a Bari, ma sì. Dai, dove? Io guarda, io di no, Bari... è sempre stato un milionaire, era uno della catena milionaire, mi pare. Non è durato tantissimo, credo un paio d'anni, forse meno. E comunque, diciamo che alcune amiche di amiche ci hanno raccontato che comunque era abbastanza intraprendente. Carità, ma poi voglio dire, sempre senza voler fare discriminazione, liberissimo. No, io volevo dire questo, io di Bari, del lungomare di Bari, non scorderò mai, non ci sono mai stato, però ci sono passato davanti ed è uno dei miei feticci d'infanzia, il Cala Corvino. Non è a lungomare di Bari. Cioè, lungomare, scusami, sulla lo si vede quasi dalla tangenziale. È tra Mola, tra Monopoli e Bari. Sì, ok, io non ricordo bene da su quale autostrada lo vedo passando. Sì, no, lo vedi passare, è vero, perché prima di arrivare a Bari Sud si vede dall'autostrada. Sai che un sacco di gente, quando è andato di moda professione vacanze... Ovviamente la citazione era da lì. Sì, è andata a prendersi casa, cioè il bungalow a Cala Corvino, e ha bestemmiato tantissimo, perché in realtà la spiaggia bellissima che si vede in professione vacanze non è lì, è a Polignano. Quando giravano il film facevano le scene nel villaggio, certo, a Cala Corvino, però poi la spiaggia era da tutt'altra parte. Vabbè, ma è un classico, costa, voglio come dire, il fuoco. È un po' come quando racconto che io lì ci sono stato, ho le foto davanti al bar di Corleone dove è stato girato Il Padrino, che in realtà è Savoca, che è in provincia di Messina. È vero, questa è un'altra roba che avevo letto, che è lontanissimo. Sì, no, non c'entra nulla. È bello che poi quel posto, quel bar, è diventato una piccola attrazione turistica. Sul belvedere di fronte c'è anche un monumento al regista. Però non ha nulla a che fare con Palermo, assolutamente. Per carità. No, ma è come la casa di Montalbano, che è in un paesino vicino Vittoria, dove tra l'altro vivono alcuni dei miei migliori amici dell'università, che cioè sono tanti pezzi di tanti paesi montati insieme. Beh, ma qui per esempio Marco ci può, visto che andiamo in questo excursus, e magari poi ci può aiutare anche Michela, che era in chat prima, sai che Monterotondo è stata utilizzata e viene utilizzata in un sacco di produzioni, soprattutto televisive, ma anche cinematografiche, per utilizzare delle location, diciamo, particolari. Napoli. A parte il fatto che una volta mi sono trovato al centro storico, mi sono trovato a scendere le scale del centro storico di Monterotondo, quello che noi chiamiamo il Pincetto, perché è un piccolo belvedere che dà sulla piazza del Duomo. A un certo punto, scendendo le scale, guardando alla mia destra, ho flashato perché mi sono visto un murales gigantesco di Maradona sulla parete. Il problema è che il giorno prima non c'era. Mi sono accorto che era stato apposto in cartapesta, quindi era effimero. Poi sono sceso in piazza, mi sono guardato intorno e ho visto un sacco di macchine parcheggiate sul piazzale dove non si potrebbe parcheggiare, e tutte che avevano in comune l'essere, diciamo, modelli degli anni 80. Mi sono un attimo guardato intorno, poi mi sono reso conto che stavano allestendo il set di una serie televisiva, sempre di quelle della Tau 2, quindi sempre quelle girate a Roma, anche se in realtà stanno sempre altrove per sceneggiatura. E credo che fosse tipo il clan dei camorristi, qualcosa del genere. Avevano trasformato il centro storico di Monterotondo nel Rione Sanità, praticamente. No, mi ricordo se era la stessa produzione di quando c'era gente costretta a camminare ore sotto il sole col cappotto, perché nella sceneggiatura si era in inverno, invece era tipo luglio. Guarda, potrebbe darsi, perché poi hanno fatto anche molte scene di una delle stagioni finali di Squadra Antimafia. E c'è, diciamo, un episodio che poi ho visto apposta, perché praticamente le scene di, diciamo così, di scontro a fuoco tra forze dell'ordine e un personaggio, un antagonista della serie, si svolgevano chiusi all'interno di questi uffici che dovevano essere il comune di un piccolo paese della provincia di Catania, ma in realtà era la biblioteca di Monterotondo. Tutte cose così. Poi, come giustamente Michela ci ricorda in chat, abbiamo cominciato all'epoca di College, la serie quella con Federica Moro, Fabrizio Bracconieri, eccetera, in cui praticamente c'era questa stazione di questo fantomatico luogo che si chiamava Montetondo, se non ricordo male era Montetondo, dove praticamente i protagonisti di College si trovavano per prendere il treno. Insomma, da lì ce n'è stata tantissima. Ma è per questa vocazione cinematografica di Monterotondo che avete avuto per diversi anni come ospite Henry Cavill in arte Superman, in arte Geralt di Rivia. Assolutamente sì, che scherzi. Quando Michela l'ha raccontata a mia moglie è diventata verde di invidia. Cioè, ancora se la ricordo. Vabbè, ma sai, tutto col senno di poi, perché all'epoca era uno, poi non era neanche. Sì, è sempre stato. Cioè, io vagamente mi ricordo chi fosse per quell'epoca, però era un bell'uomo, un bel ragazzo piazzato, ma non era l'armadio a quattro ante che poi è diventato anche anni dopo, perché comunque era molto più giovane. No, ma sai, quella è anche un po' la maledizione del ruolo di Superman, perché anche Christopher Reeve era molto più magro quando gli hanno fatto il casting per fare Superman. Poi Richard Donner lo prese da parte e gli disse: guarda, il costume è questo, lo devi riempire. Cioè, guarda, gli effetti speciali li inventeranno fra 30 anni. No, gli ha detto: ti possiamo far sparire il sudore sotto le ascelle, ma ci fermiamo lì. E quindi ha dovuto faticare un po' per riempire il costume. Quindi penso che anche Cavill si sia sottoposto a questa terapia in palestra. Ma io credo che lui comunque sia diventato una brand a quattrante a prescindere dal personaggio di Superman, perché comunque, diciamo, è palestrato non in senso da bodybuilder, sì. Però è largo, qua sembra quasi un nuotatore. No, per carità. Poi sta stempiando vistosamente, ragazzi. Vorrei che le donne si rendessero conto di questo problema, che la S che ha sul petto sta per stempiatura. È vero. La criptonite c'ha brutti effetti, purtroppo. A lungo andare. A volte li fa perdere i poteri, a volte li fa perdere i capelli. Anche gli steroidi. Sì. Effetti collaterali. Ragazzi, salutiamo il povero Davide Gatti, che leggevo che praticamente ha, diciamo, interrotto l'ascolto perché gli ha preso un'emicrania di quelle indiavolate, quindi si è dato al riposo, insomma. Anche a noi sarebbe venuta l'emicrania ascoltandoci, probabilmente. Perché siamo emigragnosi. Esatto. Ma comunque c'è questa storia bellissima di Trump che si è tagliato fuori dall'OMS. Perché non sono è che si è tagliato fuori, ha interrotto le elargizioni. Non vediamo più i soldas perché voi siete dei menzogneri, avete nascosto tutto, siete filocinesi, OMS, ragazzi, molta sicurezza. Ha finito le istituzioni a guidare la colpa. Cioè, sì, e ci sono le elezioni a novembre. Il grosso problema è quello, ragazzi. Tra l'altro, forse ci sono le elezioni. Sapete che lui voleva silurare il capo del CDC, insomma, il Fauci. Poi pare che ci abbia ripensato e abbia dichiarato che invece sono un sacco amici, ma proprio un sacco amici. Quando lui ha scritto Fire Fauci, ha retweetato. Voleva semplicemente regalargli del fuoco. Insomma. Aspetta, ragazzi, una alla volta, Marco. E quando ha scritto Fire Fauci, in realtà voleva semplicemente dategli del fuoco, dategli perché ad accendere, dategli del fuoco, poverino. Non è che volevo licenziarlo. Avete frainteso. Abbiamo frainteso noi sempre. Puccio, dicevi? No, che in realtà poi la cosa si è giustificato dicendo che non ha scritto lui Fire Fauci, lui ha retweetato il tweet di non mi ricordo quale altro sostenitore trumpiano in cui c'era l'hashtag Fire Fauci e lui non se n'era accorto. Mannaggia, ma sono quelle distrazioni che possono capitare. Comunque, vorrei ricordarvi che se avete difficoltà a riconoscere Fauci è quello che durante le dirette di Trump c'ha le mani in faccia, evidentemente sta invocando la Madonna, cioè è facile da riconoscere. Comunque, ragazzi, attenzione perché Fauci ha detto in più occasioni che in questo per come stanno le cose in questo attenzione importante, vi chiedo la linea perché il mini market sta chiudendo, l'elettrodo ha già chiuso, ha abbassato la serranda a 3/4 ed è arrivata la cliente che ha detto ma state chiudendo, si è infilata dentro, quindi bestemmie in bangladesciano si sentono insomma anche da questa parte, non so se verrà diciamo data valida questa entrata dentro il mini market, ma insomma poi vedremo, a voi lo studio. Grazie Cibali. No, dicevo che comunque lo scenario per cui le elezioni americane si potrebbero potrebbero essere rimandate a causa del virus è sempre una possibilità concreta, anche perché in America continuano insomma a stare decisamente male, hanno un numero di morti sempre crescente, sono ancora al picco. Innanzitutto ti vorrei ricordare che Trump ha detto che ha deciso con la sua decisione, che poi presto si riapriranno le cose, che funzionano, quindi può darsi pure che le cose le fanno, le elezioni può essere pure che le fanno, perché secondo me deciderà all'ultimo momento in base ai sondaggi, perché io credo che lui sappia perfettamente che se le sue possibilità di essere rieletto sono molto molto, come dire, flebili in questo momento. Poi insomma, comunque leggevo insomma che Girasole prendeva atto della leggera stempiatura di Henry Cavill, in qualche modo dice a una certa è pure inevitabile. Quanti anni avrà Henry Cavill? Perché poi non è grande, credo che sia addirittura più giovane di me, io ne ho 42, lui dovrebbe avere addirittura un po' di meno, vediamo che vi dico subito. Beh, allora è dell'83, è 36enne. Sì, 35-36, ci sta. No, cioè parlate per voi, io i capelli ce li ho ancora tutti a 42, dai, per favore. Io sono sono l'unico della famiglia che ha mantenuto i capelli, quindi ne vado. I capelli sono superflui. Ma non sappiamo cosa è andato via in cambio e non lo vogliamo sapere. Sappiatelo, guarda. È meglio che non ve lo spiego. Ragazzi, invece, domanda, sempre parlando di serie TV, avete per caso visto, state vedendo, avete iniziato, vedrete Tales from the Loop? Già visto, grazie. Tutto? Tutto. Io ho visto il primo episodio e penso che oggi continuo. Però non è proprio dinamica come serie, mettiamola così. Però non è una di quelle serie che ti vedi 2-3 episodi di fila, secondo me, perché un po'... No, io difatti sì, due episodi al giorno in due momenti diversi. È il massimo che ti puoi permettere, probabilmente. Però c'ha un'estetica fantastica, tra l'altro. Sì. Sapete, è presa da una serie di libri di illustrazioni. Ci hanno fatto anche un discreto gioco di ruolo cartaceo un po' di tempo fa. Devo dire, ogni volta che lo guardo mi resta qualcosa negli occhi. Sì, devo dire che visivamente, malgrado l'ennesima reiterazione, l'ennesima rappresentazione di un contesto anni 80, diciamo almeno inizialmente, poi con tutta una serie di se e di ma, però poi ci sono degli elementi che arricchiscono la fotografia, che la rendono veramente veramente particolare. Poi vedremo, io ripeto, ho visto un solo episodio, vedremo dove andrà a parare. Lo consiglio perché comunque ha un cast interessante, perché i protagonisti sono Rebecca Hall, che è un'attrice magari non famosissima, che ha fatto comunque delle parti significative anche in vari film, e Jonathan Pryce, che insomma non è proprio l'ultimissimo degli stronzi, quindi potrebbe essere una piccola scoperta su Amazon Prime, che diciamo sta attuando una politica diversa da quella di Netflix, meno originals, meno aggiunte mensili, però quando aggiunge, tendenzialmente aggiunge un prodotto che vale la pena vedere. Sì, quindi perlomeno c'è qualcosa di originale. Sì, esatto. Io invece ieri sera ho finito, non è una serie TV, ma potevano tranquillamente farcela, ho visto tutta la serie di John Wick. Prima l'ho già visto, ho visto 2 e il 3, diciamo di seguito, anche perché sono tutti quanti uno dietro l'altro ambientati. Cioè, continuo a credere che quella serie non ha un senso, perché non ce lo deve avere. Infatti, cioè, non è quello di avere un senso, è quello ma di sono comic movie, cioè nel senso vengono senso, comunque da fumetti, da rappresentazioni assolutamente. Non so se vengono da fumetti, però secondo me è uno spin-off di Assassin's Creed, cioè è la versione di Assassin's Creed con le pistole anziché con le lame gelate. Cioè a un certo punto ci sono anulari amputati, salti della fede sul cemento, però direttamente senza la morte, però cioè, si rialza, c'è un po' ammaccato, però cioè, è assurdo. C'è gente che viene, avete presente gli scontri che c'erano, non so, con Assassin's Creed 2 o 3, 50 contro 1 con la spada e tu li ammazzavi tutti quanti, è più o meno così, cioè 50 contro 1 e pam pam pam pam, muoiono tutti quanti. Insomma, è nello stesso universo di Assassin's Creed, qualcosa mi fa pensare che a un certo punto arriva, che ne so, Ezio Auditore o qualcosa del genere. Ma guarda, per me il problema di quel film, secondo me, è stato un successo inaspettato, perché comunque era un film indipendente, poi diciamo anche con un budget abbastanza modesto, che poi ha avuto ha rilanciato il protagonista, perché ha rilanciato un Keanu Reeves che in quel momento era, diciamo, un po' allo strapiombo, all'apice negativo della sua carriera, e qualcuno ha deciso che era il caso di, come dire, di sfruttare quel momento e di farci dei seguiti che probabilmente non erano neanche particolarmente, diciamo, previsti. Poi non lo so, non ho ancora visto il terzo. Il primo tutto sommato mi ha divertito. Il secondo mi è rimasto un pochino indigesto per Scamarcio, per alcune cose che sembravano un pochino. È un po' come quando mamma ho visto Scamarcio. Io me lo sono visto in lingua originale, mamma mia. È un po' come quando, non so se voi siete stati fan dei film di The Transporter con Jason Statham. E nel secondo Transporter l'antagonista è Gassman, sì, Alessandro Gassman, che io fa Kendo a un certo punto, a vuoto, sì, fatico a capire, fatico un po' a riconoscergli, diciamo, un'identità di attore a lui, non so perché. Personaggio, non perché non sia capace, nel senso, non è una critica al suo modo di recitare, però non lo so, certe volte fatico proprio a collocarlo tra gli attori, non lo so. Però devo dire una cosa che mi piace tantissimo di quel film, che poi è una particolarità che ho riconosciuto anche a Mad Max Fury Road: riesce a costruire un mondo con delle sue regole, con i suoi clan, anche con una sua fisica. Sì, ecco, senza spiegartelo, cioè tu capisci le cose con le azioni dei protagonisti, i vari simbolismi che ci sono dietro, è tutto è molto lì. Didascalico, cioè, diciamo. Sì, no, non ha bisogno di metterti lì e spiegarti, no, guarda, gli assassini hanno l'albergo che è una specie di casa sicura che si trova a Manhattan, però ce n'è uno per ogni grande città. Non te lo spiegano, però te lo fanno capire, tu metti insieme i pezzi ed è anche divertente per cui. A me, devo dire, cioè, mi rendo conto che sono comic movie. Poi, che cosa ti serve? Guns. Lot of guns. Comunque devo vedere ancora il terzo, che tra l'altro il secondo e il terzo sono su Amazon Prime Video. Credo che non ci sia il primo. Sì. No, mi sembra che c'è su Netflix. No, cioè non c'è il primo. Forse su Netflix, mi sa che ha ragione Carmine. Ogni tanto si creano queste diaspore, che le serie si vengono frammentate, e per dispetto le piattaforme si tengono un pezzo sapendo di non poter contare sull'altro per creare un po' di caos. È come Star Trek, che c'ha i film su Amazon Prime e le serie su Netflix. Vabbè, quello però è figlio della separazione dei diritti tra CBS e Paramount, che quindi è... No, c'è John Wick su Amazon. Tutti e tre? Sì. Ah, li hanno aggiunti da poco, prima non c'erano. Vabbè, meglio, approfitterò per farmi magari un binge watch prossimo fine settimana. Senti, la cosa però che mi è sfuggita, perché io l'ho visto un po' di tempo fa, il primo, se Carmine me lo spiega, cioè l'aggiunta tra il primo e il secondo capitolo. Sì. Perché il primo capitolo lui trova il cane, ma recupera pure la macchina però. Sì, no, la macchina la recupera all'inizio del secondo. In pratica fa una strage per recuperare la macchina. Esatto, perché non l'aveva recuperata nel primo. No, un attimo, la macchina mi sa che la recupera all'inizio del terzo. No, del secondo. Ah, ok, no, non mi ricordavo se la recuperava all'inizio del secondo. È tutto l'incipit proprio con Scamarcio sulla macchina, ragazzi. Sì. No, che poi la va a recuperare dai mafiosi che se la sono tenuti. Esatto. Comunque devo dire, forse la parte più bella di tutti e tre i film è il tizio delle macchine che chiama il padre di quello che gli ha fregato la macchina, che tra l'altro è Theon Greyjoy di Game of Thrones. E poi c'è sta pure un altro di Game of Thrones, c'è gente, è vero. Il farabutto, sì, quello che... Sì, che fa nel terzo, cioè c'è Bronn. Cioè questa scena meravigliosa, tuo figlio ha rubato la macchina e ha ammazzato il cane di John Wick. Cioè, non so si ammazza il cane a John Wick. No, è il bello che fa e chiude il telefono, poi va dal figlio e lo riempie di sberle. Una delle mie scene preferite nella storia del cinema. Fa riderissimo. Eh sì, vabbè, ma poi sai, quei personaggi, cioè come dire, John Wick è il cavaliere nero, insomma, non gli devi romper cazzo, evidentemente. Il padre lo sa, ma sai questi... No, perché poi... No, c'erano un sacco di meme, ecco, prima di Avengers Endgame, in cui facevano vedere che il cane di John Wick muore per lo snap di Thanos e gli sguinzagliano contro lui. È un po' quasi un novello Chuck Norris. Ma comunque sono curioso di vedere il quarto, a parte questa fantastica riunione che c'è con Morpheus. Sì. I'm pissed off. Ma Lawrence Fishburne c'era già nel 2, no? O nel 3? Sì, nel 2. No, credo anche nel 2. Forse anche già nel primo. No, nel primo no. Era già nel 2 e nel 3. Ragazzi, scusatemi, ma a proposito di Reunion, noi stiamo, diciamo, come dire, facendo finta di non sapere che stanno girando Matrix 4. Eh sì. Guarda, secondo me stanno provando a farlo credere anche loro che non lo stanno girando, però. No, in realtà credo che sia sospeso a causa coronavirus anche lui. Però, però per dire, cioè, alla fine hanno deciso. Io ancora non riesco a dare una spiegazione ragionevole alla deriva del secondo e il terzo Matrix rispetto al primo, perché al di là di una continuità della trama che c'è in parte, tutta questa serie di scene di sganassoni che sembra una via di mezzo tra Dragon Ball e non so che altro, francamente li ho trovati due film veramente veramente fastidiosi. No, ma erano film fatti per programmatori e per sistemisti, cioè dovevi scovarti la simbologia informatica dietro ogni personaggio. Cioè sì, quello è l'antivirus, primo... quello è il KGen. No, il secondo e il terzo, il primo ancora, vabbè. Io il primo, questa storia l'avrò raccontato un milione di volte, al cinema l'ho visto 21 volte prima che lo togliessero. Cioè proprio ho fatto collezione di biglietti perché avevo il terrore di non vederlo più. Poi mi sono comprato il lettore DVD apposta per vedermelo in DVD. Il secondo e il terzo. Bello, sì. Io il secondo e il terzo credo di averli visti in totale 3 volte l'1, una volta al cinema e poi forse un paio di volte. Io ho visto 2 volte Matrix 2 e 1 volta Matrix 3, cioè proprio... Proprio a discesa. Sì. Io ricordo che sul finale del terzo Matrix mi sono addormentato in sala. C'è gente che l'ha fatto anche con me. Il finale in sé è anche giusto, cioè c'è tutta la simbologia della crocifissione. Però il discorso è che una trama che si poteva in qualche modo chiudere quasi in 15 minuti, cioè poteva essere, diciamo, la scena finale del secondo film, e tutto il resto è un filler, un riempitivo atroce fatto di smitragliate con queste specie di mech improbabili e sganassate tra Smith, che nel frattempo è diventato un virus, e Neo, dai, cioè. No, ma sarebbe interessante, ma credo che ci sia un libro da qualche parte, lo scoverò, che mi ero ripromesso di comprare, in cui c'era la storia della produzione di Matrix con le interviste ai protagonisti, non ufficiale, quindi non un libro di merchandising. Mm-hmm. E credo che in realtà due e tre dovevano essere un film, che per richiesta dei produttori sono diventati due. Quindi credo che gran parte degli sganassoni e delle sparatorie fossero filler, come annacquamento della trama. Cioè, se ci pensi, il finale del 2 è un cliffhanger più da serie televisiva che da film, cioè, che sì, ti fa poi fine primo che tempo, Smith, di fatto è fine primo tempo, sì. Tra l'altro Girasole in chat ci dice: il primo non si batte. Il primo è un bellissimo film, per me nasce e muore da solo. Invece, per esempio, Robby dice: non li ha visti, e dice che gli mancano anche gli Animatrix. Sono una raccolta carina, perché sono tutti bellissimi. Diversi tra loro, sono tutte piccole opere d'arte, perché ogni animatore, ogni studio che ha lavorato ad uno degli Animatrix l'ha caratterizzato diversamente dagli altri. Poi nella trama l'unico che si aggancia veramente alla storia di Matrix è l'ultimo lavoro dell'Osiris, che era stato poi realizzato da Production IG, che è tutto in computer grafica. Gli altri sono... No, c'è anche la... C'è anche uno degli Animatrix, parla di come viene reclutato Mouse. Ok, sì, è vero, hai ragione. Sì. Però diciamo sono comunque tutte side stories che non si agganciano direttamente alla trama del film, mentre invece l'ultimo volo dell'Osiris è utile perché ti fa capire cosa succede, diciamo un lasso di tempo che intercorre tra il primo e il secondo Matrix. Se potete, però credo che li trovate solo su eBay e costano quanto un rene. Ci sono dei volumi a fumetti tradotti in italiano da Panini con la raccolta dei fumetti di Matrix che erano stati pubblicati originariamente sul sito del film, più alcuni inediti. Alcuni sono veramente molto molto molto belli. Io ce li ho buttati in un angolo, prima o poi me li rileggerò. Sono sempre storie separate, sono tanti one shot, ognuno di un autore e di un disegnatore diverso. Sono proprio belli, se vi capita di poterli recuperare prendeteveli. Prendiamo appunti. Tra l'altro io leggevo in chat Michela che chiede: ero io, però non capisco a cosa si sta riagganciando, quindi magari se ce lo vuole indicare chiariremo se era lei. Mm-mm. E qui pensa che quasi il pupo sta dicendo che ora che prepari la cena, eh? No, si deve attaccare la mamma. Io sono il genitore 2, sono il genitore di backup. In realtà, anche se quando lo sollevo ride, e quando sente Pizzi che parla, ride. È non bello, capiamo nostro... perché. Nel frattempo, Lobby ci domanda, forse Carmine lo sa, dice: come si chiama il fumetto da cui Gli Invisibili di Morrison. Gli Invisibili, okay. Di Grant Morrison. E, tra l'altro, bravo, bella domanda, perché ora che la Panini Comics ha preso i diritti dei fumetti di DC e Vertigo, è in uscita un omnibus, quindi un volume gigante che costerà penso più di 70 euro, in cui verrà raccolta tutta Gli Invisibili di Morrison, che in Italia è stata pubblicata credo una volta sola dalla Play Press, mi pare, e in parte dalla Magic, e tradotta malissimo. No, scusami, tu hai detto una cosa che mi ha gelato il sangue: Panini Comics, quindi Marvel, quindi Disney, hanno preso i diritti per la distribuzione dei film DC, dei fumetti DC in Italia? Certo. Io un po' che non leggo, sì. È una notizia di qualche mese fa. Tra l'altro ci sta lavorando nel gruppo anche una persona che per me è un fratello, che è Raffaele Caporaso, un ragazzo di Bari che i miei figli chiamano zio, almeno quella che parla lo chiama zio. Dovrebbero uscire a breve, sono stati rimandati un po' a causa coronavirus alcuni albi che faranno da congiunzione tra quello che è stato pubblicato dalla Lion e i nuovi numeri che usciranno per la Panini, e in più si sono presi ovviamente tutto il catalogo, anche Vertigo, la linea Young Animal, insomma tutto quello che ruota intorno alla DC canonica. Se andate sul sito Panini trovate tutto il piano delle uscite, tra cui il volume degli Invisibili, che io, pur avendo la versione pre-press, me lo ricomprerò di corsa, anche perché è tradotto da una ragazza di Bari, Sveva, che è una mia, ci stavo parlando qualche fa, credo di non aver svelato nessun segreto industriale perché è una cosa pubblica. E... ma tutto a Bari fate? Eh sì, no, Raffaele è di Bari, tra l'altro, capolaso, è mio amichissimo, è molto più giovane di me, cioè, ha i capelli ricci, è più magro. comunque hanno un bel piano editoriale, devo dire. Io sono anche molto amico di Lorenzo Corti, che era il curatore della Lion Comics per i prodotti DC, e io gli continuo a rendere conto del grande lavoro che hanno fatto finché hanno potuto. Poi purtroppo la Lion ha avuto altri tipi di problemi, i diritti sono finiti alla Panini, però il lavoro di Lorenzo glielo riconosco sulla... tutta la vita. Su, come dire, io sono sempre un po', come dire, portato a pensare al conflitto di interessi in certi casi, no? E pensare che l'editore, cioè il tuo più grande antagonista, il tuo più grande competitor, pubblichi anche te, come dire, anche se lo fa solo in un mercato secondario, però... No, però per esempio in Germania, credo in parte in Sud America, la Panini pubblica sia Marvel che DC, quindi non è una novità. Anzi, era abbastanza strano che non avesse i diritti in Italia, perché in molte altre nazioni pubblica entrambi. Non lo sapevo. Va bene ragazzi, ci ha raggiunto ai microfoni, approfitto per salutarlo, il nostro beneamato Lobby. Ciao Lobby! Ciao, non vi stavo seguendo, ragazzi. Ciao. Una volta tanto, la prima live che mi perdo in toto, ma c'avevo da fare. Una volta tante che c'ho da fare, ne approfitto. Come state, ragazzi? Di che avete parlato? No, mi interessa. Dopo mi recupero. Bene, no, dottore, ma niente di grazie. Particolare. Abbiamo insomma cercato di intrattenere un'oretta e mezza con argomenti vari ed eventuali. Ecco, se mi vuoi psicanalizzare, raccontavo la storia che stamattina ho lavato la tazzina del caffè in bagno anziché in cucina, senza un perché. Sei andato in pilota automatico, semplicemente eri distratto, ti trovavi già là e sti cazzi. Sì, ma infatti. Il prossimo. Queste sedute, ma io sogno unicorni che fanno gelati. Ma non ti piacciono i gelati, però lo associ alle corna che ti ha fatto una ragazza che faceva gelatara, oppure ti piacciono i corni in dar posto. Il prossimo. Dottore, mi piacciono le tette. Anche a me mi piacciono. Apposta. È un problema che abbiamo un po' tutti. Sì, dobbiamo andare insieme da un altro psicologo. No, ma lui piacciono sul suo corpo, però. Piacciono sul tuo, nel senso che vengono struscinate sul tuo corpo, che ti piacciono le tue tette. Mi piacerebbe averle. No, il concetto è: meno male che non sono nato donna, se no stavo tutto il tempo a toccarmi le tette. Penso che fosse questo. Può essere. Allora sei completamente normale. Quindi il prossimo. Va bene, direi che abbiamo esaurito le sedute per oggi. Intanto hai fatturato già 4 clienti. Infatti. Se volete dalla chat, dopo vi mando per email tutti i Liban. I connotati. Iban, ve lo dico, lo so a memoria. Cazzarola. Senti, comunque tu oggi sei in questo. Lo stavo a dire, però vabbè. No, io volevo farti l'endorsement perché sei qui per un motivo, dicci. Sì, per un motivo, è che la settimana scorsa Pizzi, così a cazzo, infatti la puntata inizialmente si chiama così, De Botto Senza Senso, accesi i microfoni verso le 11:30 e poi dopo un po' mi aggiunsi io, si aggiunse anche Gianluca Sansola, si aggiunse anche Alberto Parisi, andammo avanti fino alle 2, fino a quasi le 2 a parlare. Di niente, ma di tutto, proprio a flusso di coscienza. E stasera l'abbiamo fatto un pochino lievemente più programmata, strutturata no, di strutturata non abbiamo niente, ma sì, abbiamo già un tema, meglio un titolo, The Quest for Helio, una cosa che è nata ieri sera con la live di Umberto. Di Alex, di MDB Summer. Di MDB Summer Radio. E probabilmente non ci azzeccherà niente col contenuto. Io ho proposto di svilupparla tipo il caso Scafroglia, solo che cerchiamo un certo Elio, però non andrà così. Comunque alle 11:30 si accendono i microfoni, ci saremo io e Simone Sicuro, e chi vorrà aggiungersi si aggiungerà. Probabilmente ritorneranno Gianluca Sanso e Umberto, e forse ci saranno anche delle quote rosa. Attenzione, colpo di scena. Sì. Vediamo se riesco a aggiungervi come ascoltatore, sì. Però tendenzialmente a quell'ora io sono vecchietto, sto già tra le braccia di Morpheus. 10 minuti, dite una cazzata e vi oscurate, a noi ci fa piacere. Proprio il format è così, tipo Radio di Notte che chiama il tipo: eh sì, mi piace quella tipa, però diciamo la parolina, sì sì grazie. Così la vogliamo proprio sviluppare così, come va bene. Va bene, quindi c'è... appuntamento dalle 23, giusto? Dalle 23 e 30. 23 e 30. Live 30. Sempre qui su Spreaker. Ovviamente, se ancora non vi siete iscritti al canale Telegram in cui accentra tutte le dirette, fatelo adesso, che è Runtime Radio, proprio trovate. .me, come slash, come me lo... Guarda, dite, già rimesso in chat. Bravo, bravo. Operativi. T.me slash ragazzi, Runtime Radio. Mi dovete invidiare perché mia moglie mi ha appena portato le patate fritte a palline con sopra il parmigiano. Grande Clelia. Le patate noisette, scusatemi, non fritte. Stavo per fare una battuta di in riferimento al discorso di prima, ma non la farò. E poi mi spoiler il discorso di prima. Che bello che mi spoilerate le cose, però cioè io ho visto il finale di questa puntata, però non so il resto. È quello che mi chiedeva un evento di pochissimi minuti fa, c'eri anche tu. Ah, ecco, è vero. No, ma sei tu che hai chiesto da quale fumetto avevano plagiato parte di Matrix? No, sì. Mi ricordo. No, cioè, no, di Lobby, sì. No. Ah, Lobby, ok, no. No, assolutamente. Lobster, quello è un altro. Quello è un altro. li confondo sempre. Si somiglia. Perché mi confondete sempre? Vabbè. Vabbè, ragazzi, che dire? Io approfitto a questo punto per cambiare il nostro sottofondo perché siamo arrivati al momento del dunque. E niente, mi sto godendo un attimo questo solo jazz. Volevo ringraziare tutti quelli che oggi hanno reso possibile questa ennesima diretta, questa live di OGM, oltranzisti gastricamente maleducati. Con me il maleducato di casa, Marco Gualdi. Ciao, io vi saluto e vi ricordo che se non ci ascoltate siete tutti Dio casa. Che è una nuova catena? Oddio Saka. Oddio Saka, va bene. Poi c'è il consulente maleducato dalla Puglia, Calvine Puccio Console. Io mi sto facendo violenza per non mangiarmi le patate noisette prima della fine della puntata. Vai tranquillo. Salutate, che tanto veloce. Abbiamo praticamente concluso. Puoi ingozzarti. Ringrazio anche Lobby che ci ha raggiunto pochi minuti fa. Ricordo anche il nuovo canale YouTube di Davide Gatti. Trovate tutti gli estremi anche sul nostro canale Telegram per saperne di più. Vi do appuntamento a questo punto. Do appuntamento al format di questa sera dalle 23.30 in poi, live con Simone Pizzi, con Lobby Frontali e con una serie di amici che si uniranno. Ringrazio il pubblico che ci ha ascoltato e ricambio gli auguri l'augurio di buona cena da parte di Michela De Paola che ha scritto in questo momento in chat. Ringrazio anche Girasole, ringrazio anche Davide Gatti che ci ha ascoltato fino a quando non è sopraggiunto il mal di testa. Ringrazio Alex Raccuglia, ringrazio tutti quelli che oggi, che come sempre, ci ascoltano pavidamente e si vergognano di ammetterlo. Ciao. Vergogna. Ciao. Vergogna. Ciao.